it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo la nostra trasmissione con l'8 marzo 2015 qui a Roma. Allora, in risposta all'appello delle compagne curde di dedicare l'8 marzo di quest'anno alla loro lotta, alla lotta delle donne curde, alla lotta alla resistenza nel Rojava, si sta organizzando qui a Roma una manifestazione per domenica 8 marzo. È organizzata da svariati collettivi femministi, fra cui c'è anche la coordinamenta, e fra pochissimo uscirà l'appello condiviso e uscirà il manifesto che faremo circolare il più presto possibile. È prevista un'assemblea per domenica prossima alle 19 al centro socioculturale Ararat per continuare a definire le modalità e questa giornata. La coordinamenta comunque ha già iniziato da diverso tempo, diciamo proprio, se vogliamo dirla tutta, dall'anno scorso, dal settembre dell'anno scorso, con l'assemblea sulla Siria, sull'aggressione alla Siria, un percorso contro la guerra del capitale e contro l'ordine patriarcale, intendendo con questo una lotta a tutto campo, partendo dalla dimensione antiimperialista e arrivando fino alla dimensione nostra contro l'oppressione patriarcale che subiamo tutti i giorni. In questo senso siamo molto vicine alla lotta delle donne curde e per questo partecipiamo volentieri al percorso collettivo e comune. Noi comunque contro la lotta contro il patriarcato e contro il capitale, appunto contro la guerra imperialista in particolare, abbiamo costruito il nostro percorso specifico nell'8 marzo, che poi porteremo in quello, già abbiamo portato e stiamo portando in quello collettivo delle donne curde. E poi, come molto spesso abbiamo detto anche nei mesi precedenti, insomma, che ricordando appunto il nostro 8 marzo, nel senso ovviamente inteso come la nostra lettura come compagne rispetto a quella data e cosa sia quella data, abbiamo lavorato in questi mesi su un documento che fosse riassuntivo, un po' come diceva Eli, no? Di un trade union, un filo rosso che riconducesse un po' a tutto quello che è stato, diciamo, il nostro, la prima parte del nostro anno politico, non che ovviamente certo, quello precedente non fosse legato a questo, però diciamo che quest'anno è stato molto improntato rispetto alla discussione, all'analisi rispetto a quello che è l'imperialismo e la guerra che il capitale fa soprattutto a noi compagne, a noi donne, e quindi insomma questo è che vi andiamo a leggere, è il comunicato che ha scritto la coordinamenta, un po' il riassunto di tutto il proprio percorso che è stato fino adesso. Ecco. Allora, 8 marzo 2015, contro la guerra del capitale, contro l'ordine patriarcale. Siamo immersi in scenari di guerra. Dovunque volgiamo il nostro sguardo, la guerra e la militarizzazione sono diventate paesaggio urbano e dimensione internazionale. Ma tutto questo non è dovuto al fato, ad una particolare congiuntura, a personaggi particolarmente malvagi, bensì non è altro che lo stadio di maturazione del capitale. Il neoliberismo è la dimensione politico-ideologica a cui è giunto il capitalismo nella sua necessità di espandersi e di distruggere ogni altra configurazione economica, marginale nei paesi occidentali, di sussistenza nei paesi del terzo mondo, che ostacoli il suo processo di crescita. La cosiddetta crisi non è altro che lo strumento per la ridefinizione dei rapporti di forza tra stati e multinazionali, e con le oppresse e gli oppressi tutte e tutti. In questo procedere la guerra è strumento di potere e assoggettamento, e allo stesso tempo momento di crescita economica e di sfruttamento. Non a caso è tornato prepotentemente sullo scenario internazionale il colonialismo, mascherato non più sotto la veste di una superiore civiltà da portare ai popoli del terzo mondo, bensì sotto quella della tutela dei diritti umani, di quelli delle donne, delle diversità, dell'autodeterminazione dei popoli. In questo processo di ridefinizione degli assetti su fronti interni e fronti esterni, gli Stati Uniti si pongono come Stato del capitale, rivendicando a sé il ruolo guida e mettendolo sistematicamente in atto con la NATO, diventata esercito di aggressione e polizia internazionale. Gli USA, con l'alleata Inghilterra e con gli stati vassalli, stanno procedendo ad una sistematica destabilizzazione di tutte le aree, i governi, gli stati, che sono asimmetrici rispetto ai loro interessi, dalla Jugoslavia passando per l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, la Siria e ora l'Ucraina, oggetto di un vero e proprio colpo di stato nazista in funzione antirussa. L'Ucraina è per gli Stati Uniti il terreno su cui piegare la Russia, altrimenti sarà la guerra, con tutto ciò che un conflitto mondiale può esprimere ora. La Francia e la Germania si barcamenano strette tra la necessità di piegarsi agli interessi statunitensi e quella di tutelare i loro interessi economici, che sarebbero ben altri. L'Italia è servita agli Stati Uniti, i governi riformisti a guida PD sono semplicemente dei funzionari statunitensi. In questo quadro il femminismo si trova di fronte alla necessità imprescindibile di fare chiarezza politica, di collocarsi e di scegliere da che parte stare. Le posizioni neutrali non esistono, non esistono più orticelli privati da coltivare o giardini protetti. Si devono necessariamente smascherare i meccanismi che vengono posti in atto per perpetuare la nostra oppressione sotto le mentite spoglie di un'attenzione pelosa attraverso la promozione sociale di donne che si prestano all'asservimento di tutte le altre donne, degli oppressi tutti e tutte. Il loro compito è di fornire un paravento dietro il quale la società patriarcale e neoliberista può nascondere i propri obiettivi reali, quali l'inasprimento della disoccupazione, la precarizzazione della vita, le crescenti diseguaglianze, le guerre umanitarie, il ruolo di cura da cui dicono di essere affrancate e in cui viene prepotentemente confermata la stragrande maggioranza delle altre donne. Poiché questi obiettivi sono inconfessabili, si veicolano come emancipazione, come transizione, che dovrebbe condurre alla nostra liberazione, così come nella società il neoliberismo viene presentato come moderno e dovrebbe condurre alla crescita, alla piena occupazione, alla giustizia sociale e nei paesi del terzo mondo alla democrazia. L'uso strumentale della nostra oppressione qui da noi e nei riguardi del terzo mondo ci chiama direttamente in causa senza possibilità di appello. Gli USA, nel loro processo di destabilizzazione dei paesi asimmetrici ai loro interessi, hanno foraggiato, armato, addestrato, portato al potere talebani, integralisti musulmani di ogni tipo, ISIS, e allo stesso tempo usano lo spauracchio del terrorismo, marchio itinerante da affibbiare ogni piesso spinto per avere mano libera negli interventi destabilizzanti nella loro intromissione in qualsiasi stato e a qualsiasi titolo ritengano opportuno. Per fare questo hanno distrutto con i mercenari del Qatar, degli Emirati Arabi, del Bahrain, stati laici, dando l'impasto agli integralisti musulmani, e ora si pongono come paladini della difesa dell'Occidente contro il terrorismo. La strumentalizzazione dei diritti umani, l'uso del pinkwashing, l'uso della violenza sulle donne, sulle lesbiche, sulla diversità per attaccare e aggredire i paesi asimmetrici, non lascia spazio a nessuna posizione neutrale. Lo sdoganamento degli integralisti musulmani ha distrutto ogni tentativo in Medio Oriente di società laica. La resistenza delle donne curde nel Rojava e il percorso personale e politico che stanno attuando per contrastare e destrutturare il dominio patriarcale apre un internazionalismo e ai legami femministi che fanno parte da sempre delle nostre pratiche, e allo stesso tempo ci conferma come supportare la loro lotta significa per noi lottare qui e ora, nei luoghi dove nella nostra società occidentale si esplicano a tutto campo le oppressioni su di noi. L'ordine patriarcale e la guerra del capitale camminano di pari passo. Non esiste lotta femminista muta, è inutile ingannarla e manipolarla. Non rimarremo in silenzio, non ci faremo imbavagliare, ricattare e usare. La lotta batte ancora, viva nelle vene del tempo del presente. Like a leaf that has flown away, gone with the wind. My romance has flown away. Yesterday's kisses are still on my lips. I've had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that fills my heart. Gone with the wind, my romance has flown apart, just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke ring that has gone, gone with the wind, gone, gone, gone with the wind, just like the leaf that has flown away, gone. E abbiamo dedicato questa trasmissione a tutta una serie di collegamenti con delle compagne che si sono occupate, rispetto alle donne curde, di tutta una serie di cose in maniera molto specifica, e che a noi ha fatto veramente piacere e che rimbalziamo con molta partecipazione. Uno di questi momenti è stata l'apertura da parte delle compagne, di alcune compagne di Milano, di un blog che si chiama Da Cubane a Noi, e adesso ci colleghiamo proprio con una delle compagne che hanno aperto questo blog, perché ci racconti come e qual è stata la molla che le ha portate a fare questa iniziativa. Un attimo di pazienza che vediamo di collegarci. Perfetto, adesso ti sentiamo anche noi. Okay. Allora, ciao, abbiamo cominciato col dire che la vostra iniziativa, cioè quella di aprire questo blog Da Cubane a Noi, ci ha colpito in maniera particolare, ci ha fatto moltissimo piacere, soprattutto per le ragioni che voi ci avete raccontato, e quindi ci farebbe piacere che le raccontaste, insomma, qui anche a chi ci ascolta, e spiegaste il perché di questo blog. Sì, certo. Allora, diciamo che lo strumento del blog, appunto Da Cubane a Noi, è uno strumento che abbiamo creato dopo un percorso che tra compagne milanesi femministe dura da più di un anno, nel senso che abbiamo cominciato ad occuparci della questione curda, in particolar modo della questione di genere, perché c'erano alcune cose che in questa lotta ci risuonavano molto, in cui ci ritrovavamo, e quindi diciamo la nascita del blog è stato un po', è uno strumento ma è anche una tappa di questo percorso in cui volevamo creare uno spazio in cui appunto da Kobane a noi avere uno spazio dove dire quello che noi pensiamo, quello che rilanciare anche quelle che sono le esperienze, la lotta delle donne curde, e quello invece anche che ci risuona e quello che vogliamo proporre. Abbiamo letto una vostra brochure molto sì, esaustiva, insomma è a tutto campo, un'analisi a tutto campo che avete fatto. Sì, anche perché appunto diciamo che più di un anno fa l'interesse è nato proprio per questa esperienza che si sta facendo nel Rojava, nel Kurdistan siriano, del confederalismo democratico, no? Cioè, ha colpito molto questa esperienza molto avanzata nel cuore del Medio Oriente, no? Anche perché spesso invece a maggior ragione ultimamente anche con la guerra si contrappone sempre un modello di democrazia occidentale che funziona a un Islam e un Oriente cattivo che invece arretrato e compagnia bella. Esatto, invece violenta. Questa esperienza è molto particolare e va a scardinare un po' quello che è il sistema del dominio patriarcale maschile, che appunto parte dallo Stato-Nazione fino alle relazioni sociali e politiche all'interno di una comunità, di una società. Quindi questo è stato un po' quello che ci ha colpito all'inizio, per quello anche tutta quella parte, dicevi tu, di analisi a sì, tutto tondo. E chiaramente la cosa che a noi poi ha fatto anche un po' scattare la molla, ci ha interessato, è stata la questione di genere, per cui si rifletteva sul fatto che era la prima volta che un movimento rivoluzionario a difesa anche di un popolo e che vuole autodeterminarsi parte proprio da questa questione, la mette come imprescindibile per realizzare una comunità altra. Certo. Per cui diciamo queste sono state un po' le due molle che ci hanno fatto interessare. Dopo abbiamo capito anche che andando a leggere i testi e conoscendo le compagne curde, scambiandoci un po' opinioni, pensieri, che c'erano anche altre cose che ci risuonavano o che comunque ci interessano e che vorremmo riportare qua, ma che in un certo senso anche negli ultimi anni anche noi abbiamo un po' sperimentato, o comunque sono sempre stati temi legati alla nostra pratica femminista. Sì, infatti la cosa che penso sia più importante non è tanto, cioè certo i rapporti internazionalistici, non so neanche se questa parola è giusta, comunque i rapporti di reciprocità, chiamiamola così, con donne che lottano per la liberazione dal capitale e dal patriarcato. È chiaro che ci sono sempre appartenuti, però allo stesso tempo a noi è piaciuto il fatto che voi avete cercato nell'esperienza delle donne curde di trovare i legami proprio con le lotte che noi stiamo facendo, che abbiamo fatto qui o che comunque si dovrebbero fare, ecco. Sì. Esatto, questo è quello che abbiamo anche cercato un po' di dire nel documento, un po' anche come spunto, no, per rivitalizzare, visto che questa lotta comunque ci ha molto entusiasmate, e quindi abbiamo cercato un attimino di mettere giù questi punti e insomma, come avrete letto, tra questi chiaramente c'è la visione, come già accennavo prima, la visione che abbiamo della società, una società che se non vede la donna libera non è una società liberata, insomma questo è stato la prima liberata dal dominio maschile e quindi questo è stato il primo punto, no, che ci ha accomunate, e abbiamo visto che nella nostra pratica di genere è sempre stata una costante questa, no, che magari all'interno dei movimenti non dico solo in Italia spesso questo aspetto viene sempre un po' a mancare o comunque secondario o se non altro è formale. Questa è la cosa anche che ci è piaciuta di questa lotta, che non è, perché ci sono anche altre lotte, voglio dire, che hanno messo la questione di genere al centro, però poi nella pratica era più una formalità. Certo. Che una pratica. Invece qua diciamo che loro volta, sì, sono in una situazione particolare, sì, perché portando avanti una lotta lotta di liberazione a tutto campo, in effetti poi devono fare i conti, avrebbero anche potuto, come è successo in tante altre occasioni, bypassare la questione di genere, e invece l'hanno fatto. No, non l'hanno fatto, credo anche perché in questo caso le donne hanno avuto un ruolo, nel senso che, appunto, come dici tu, in altri movimenti c'è stata questa questione, però se le donne non avessero autodeterminato le loro vite, che non mi riferisco solo alle donne, insomma, che si difendono e autodifendono in questa guerra, ma intendo anche proprio a più livelli della società, cioè si stanno auto-organizzando soprattutto nel Rojava, ma anche in altre parti del Kurdistan, in altri luoghi si stanno organizzando anche a livello sociale, cioè le case delle donne, che appunto sono molto differenti da quelle che abbiamo qua, ma anche in cooperative a livello economico, creando un'autonomia a tutto campo, quindi in ogni, diciamo, in maniera capillare stanno cercando di rendersi autonome e autodeterminarsi. Forse questo, no, che è stato un po' anche la differenza da altri da altre esperienze, per cui la pratica qui è stata fondamentale, cioè non c'è solo una teoria, teorizzare una liberazione, ma metterla in pratica. Infatti, appunto, noi riportiamo anche spesso questa frase di Sakineh, che dice che il movimento femminista delle donne curde è stato caratterizzato proprio dalla pratica che poi ha rinnovato la teoria, quindi certo. Partono proprio a volte al contrario rispetto ad altre lotte, e quindi, diciamo, questi sono stati un po' i punti fondamentali, e in questo, ricordando proprio anche Sakineh, o quello che ho appena detto, ci siamo riconosciute anche molto nel partire da sé. Certo. Per cui le donne hanno messo anche in luce le loro contraddizioni partendo da sé, praticando in maniera separata una propria formazione culturale, politica, e in questo caso anche di autodifesa, perché sono organizzate anche in unità di difesa delle donne, delle YPG. Certo. Senti, prima che tu vada avanti su questo argomento, volevo fare una nota su quello che stavi dicendo prima, no? Cioè che loro hanno un approccio a tutto campo, e quindi in pratica c'è questa potenza all'interno della società che viene da una loro determinazione a tutti i livelli, no? E però, per esempio, tanto per fare un discorso che può servire a noi, perché una tenta sempre di trovare, no, legami di questo tipo, e comunque di essere cioè di trarre da questa esperienza delle cose che possono esserci utili. A me l'altro giorno, anche quando stavamo facendo l'assemblea qua a Roma, proprio per preparare la manifestazione, mi è venuta in mente una cosa. Noi negli anni 70 abbiamo avuto un momento di grande potenza come donne, cioè le donne negli anni 70 hanno c'era una capillarità di presenza nella società in maniera critica, e comunque con un desiderio così forte di ribaltare lo stato delle cose presenti, che stavo dicendo che noi come consultorio autogestito avevamo in indirizzario 800 indirizzi in Italia di gruppi piccoli, piccolissime, e diffusi sul territorio, che facevano salute in autogestione, discorsi di tutela delle donne, perfino nel sud, che era e sempre stato un ambito molto più difficile, no? Allora, tutto questo patrimonio è stato distrutto, tant'è vero che le generazioni che sono venute dopo neanche hanno la sensazione. Sì, viene raccontata questa storia, però viene raccontata coi mezzi che il sistema si dà, e quindi con una memoria edulcorata, taroccata e compagnia bella. Allora, una delle cose, secondo me, che ci dovremmo chiedere qui da noi, per ricominciare, e perché da quella esperienza, da quel momento, noi siamo arrivate qua. Qui chiudo l'inciso. Sì, no, cioè, sicuramente questa cosa, infatti, della capillarità e dell'essere presenti in ogni aspetto della vita, della propria vita, quindi la vita della donna, è importantissimo, no? Per cui, ma probabilmente questo ti fa rendere veramente autonoma in ogni spazio, in ogni tempo, in ogni modalità della tua esistenza. Quindi probabilmente sì, è vero, in quegli anni lo spunto c'è stato, poi un po' si è perso, che è quello che un po' abbiamo raccolto poi noi. Bisogna che ci chiediamo perché la storia e la memoria servono a questo, in effetti, no? A certo. Essere usate nel presente per non ripetere gli errori del passato. Esatto. Niente, mi stavi dicendo, poi ti ho trascinato altrove. Mi stavi dicendo del partire da sé. Sì, del partire da sé per poi superare il sé, però questo, anche in questo ci siamo un po' ritrovate, no? Perché anche noi abbiamo sempre usato questo, il metodo del partire da sé, per cui parto dalle mie contraddizioni e poi le ributto nell'esistente per superare il sé, ma rimetterci poi in discussione in tutta la società. E quello su cui riflettevamo anche, che probabilmente questa lotta che si sta verificando in questa parte del Kurdistan fa sì che si crea una comunità altra. Tante volte abbiamo detto, una comunità altra si crea quando una lotta funziona, quando si crea una comunità altra, cioè probabilmente questa lotta, quella lotta lì funziona perché hanno messo in discussione tutti i modelli della comunità, per cui si sono auto-organizzati in questi tre cantoni e si stanno autogovernando in un concetto di democrazia dal basso, chiamiamola così, molto differente da quelle che sono le cosiddette democrazie occidentali. Quindi questa cosa noi ci siamo molto ritrovate, perché ne abbiamo parlato spesso parlando di Valsusa, dove certo, la prima cosa che ci viene in mente sì, perché è l'ambito adesso in Italia dove dove c'è una possibilità di cambiare le relazioni, e dove, se non altro, almeno dall'aspetto del cambiamento, uscire dai ruoli, le donne in Valsusa hanno cominciato a praticare questa cosa, se non altro ci stanno provando. Poi magari, certo, è una condizione diversa, come dicevi tu, non siamo all'interno di un movimento di liberazione di un popolo, ma comunque lì alcuni di questi concetti ci sono in discussione, per cui lì si sta creando o si sta sperimentando anche lì una comunità altra. Quindi questa cosa noi l'abbiamo molto ritrovata. Ma infatti penso che, scusa se ti interrompo, che sia proprio questo il punto centrale, anche per quanto riguarda la Val di Susa, no? Il fatto che, proprio come dicevi tu prima, si è partito anche da sé, da tutto ciò che riguarda un bagaglio politico, sociale, che è vicino al femminismo, e è proprio questo che permette poi di creare, no, una comunità altra, come dicevi. Secondo me sta lì poi il nucleo che cambia le cose, perché ci sono state tante esperienze poi negli anni, nei decenni, di possibilità di altre comunità, di autogoverni in varie parti del mondo. Però secondo me, quando c'è questo cardine che viene rotto, e se quindi si decide di partire insieme senza rimandare poi a un altro momento la liberazione delle donne o l'emancipazione, ma invece è un nucleo fondamentale che cammina con tutte le sue difficoltà, però dall'inizio insieme, e questo la Val di Susa effettivamente l'ha dimostrato, è il motivo per cui secondo me è anche molto interessante quel percorso. Certo, anche perché io, insomma, sono convinta di questa cosa, e la lotta delle donne curde un po' ne dà piccole dimostrazioni quotidiane, e che probabilmente una lotta sarebbe già morta se non ci fosse stato. Cioè, io credo che se nel Rojava si è arrivati a parlare di questo modello che sembra comunque avanzato di organizzazione sociale, è perché si è messa in discussione questa questione di genere e le donne hanno preso in mano le loro esistenze, sennò io credo che a questo probabilmente non si sarebbe arrivati. Poi va anche riconosciuto che appunto questi discorsi sono partiti già da alcuni scritti di Ocalan, che è comunque un uomo, e che però poi di fatto sono le donne che hanno preso in mano questi discorsi, altrimenti sarebbero rimasti pura, certo, teoria, insomma. Per cui mi ricollego a questo, anche perché c'è un altro punto importante in cui noi ci riconosciamo molto con quello che dicono le donne curde, che questo concetto di non riconoscere il genere femminile come un genere oppresso e debole. Questo, secondo me, loro infatti parlano sempre di questo stare in piedi, di resistere, ma che non è una resistenza passiva, ma è molto attiva, come abbiamo visto, e questo è un concetto molto importante, perché si riaggancia poi a un discorso post-vittimista, di uscire da questa idea di essere vittime e prendere in mano la propria vita. Questo poi magari avverrà anche nella seconda parte della discussione con Nicoletta, però questo concetto a noi ci ha molto colpite, perché noi ci riconosciamo molto in questa cosa, no? Nella nostra società una donna che subisce una violenza, sia da parte dello Stato che all'interno della famiglia che al lavoro, così delega la propria autodifesa allo Stato o al dominio maschile e si rende vittima, per cui non è più parte attiva nel difendersi o nel far sì che una violenza venga riconosciuta e rifiutata e combattuta. Quindi La vittimizzazione è comunque un grande strumento di sottomissione, alla fine, no? Per cui questo tipo di organizzazione sociale, capitalista e patriarcale fa tanto comodo proporsi come paternalista e difesa pelosa delle donne, allo stesso tempo strumentalizzazione, è un circolo vizioso che poi si chiude. No. Certo, e io devo dire che probabilmente le curde, come comunque anche altre femministe in Europa, non solo, ma anche noi stiamo tentando questa strada per far sì di uscire da questo ruolo e autodifendersi. È molto importante una formazione separata, crearsi, formarsi culturalmente, politicamente, socialmente solo tra donne è chiaramente uno strumento fondamentale da riportare poi anche nel misto, ma come pratica è imprescindibile. La costruzione dei percorsi, i pensieri, la difesa, l'autodifesa, l'autodeterminazione vengono, almeno noi ne siamo straconvinte, in ambito separato. Certo, anche perché non possiamo pensare di non essere influenzate da uno sguardo maschile, senza il quale riusciamo chiaramente ad avere altri modelli, altre pratiche, a formarci da zero, da sé. Certo. E quindi questo è molto importante e sicuramente si collega anche a questa questione di non essere genere oppresso, e si collega anche, secondo me, a un altro punto che abbiamo visto avere in comune con le donne curde, che è un po' l'idea dell'immaginario, no? Dell'immaginario femminile, che a noi ha molto colpito, soprattutto quando è scoppiata, o se non altro quando c'è stato sui media, sui mainstream, è passata molto in risalto la guerra in quelle parti del Medio Oriente, che comunque una guerra che, ricordiamo, è già iniziata anni fa contro Assad, in cui appunto i curdi hanno scelto questa terza via, no? Quindi, certo. E qui abbiamo visto che all'inizio non si parlava delle donne curde, non c'erano immagini. Quando hanno cominciato invece a rimbalzare immagini delle donne curde su Facebook, su Twitter, così, allora anche i media ufficiali hanno cominciato a parlare di loro. Però ci ha molto colpito questa questione dell'immaginario, che è un'altra cosa su cui noi sono tanti anni che cerchiamo, comunque lavoriamo e cerchiamo di dire qualcosa di altro. Abbiamo visto che le donne curde, la prima cosa che è stata detta di loro a queste belle donne, un po' questa idea della donna, ma perché ribelle, questa società è terrificante, per usare in maniera simbolica piegare ai suoi obiettivi. No? Esatto. Tutto è come no. Esatto, ma anche un po' neutralizzarla. Certo, gli togli un po' la sensazione che per neutralizzare le capacità di queste donne che comunque stanno facendo la guerra, ma non tanto perché le idealizziamo, perché è bello che impugnino delle armi, cioè non è quello il punto. Il punto è che queste donne, se oggi sono arrivate ad autodifendersi, è perché hanno un percorso alle spalle che probabilmente è iniziato già negli anni 70 ed è arrivato fino ad oggi, in cui hanno decostruito un immaginario, hanno praticato altro e sono arrivate oggi con una consapevolezza e una presenza all'interno della loro comunità e società che le ha portate oggi ad avere un altro immaginario, sia tra loro che agli occhi anche di altri. Infatti è vero, noi le abbiamo viste così, sottolineando la loro bellezza, un po' questo immaginario esotico, un po' neutralizzate, sempre solo magari viste come coloro che si occupavano di donne e bambini, hanno fatto anche quello, certo, ma capaci anche di altro. Per cui questa cosa di essere sempre strumentali per dare un immaginario di donna che spesso non ci corrisponde, cioè loro stesse tranquillamente dicevano sì, va bene, ma c'è una guerra, stiamo mettendo in atto un esperimento molto avanzato, e quello che viene detto di noi è che siamo belle, ecco, forse all'interno di noi dovremmo dire anche altro. Sono state abbastanza, quando le abbiamo incontrate a Roma al convegno, sono state molto chiare su questo, su questo punto. Senti, se ribadisci il blog, sì, poi so che lì da te ci sono anche altre compagne che magari ci potrebbero raccontare che cosa volete fare, che cosa sono le tappe che avete previsto per l'8 marzo, che cosa vorrete fare l'8 marzo. Certo, allora il blog è appunto da Kobane a noi.noblogs.org. E avete anche una mail? Sì, da Kobane a noi @gmail.com. E mi pare anche una pagina Facebook, sbaglio? C'è la pagina Facebook, sì, adesso non la so esattamente, però è sempre da Kobane a noi, compare subito la pagina Facebook. Sì, abbiamo diverse iniziative, abbiamo anche l'8 marzo, abbiamo raccolto l'appello delle donne curde, quindi se ci passi loro, così non diamo neanche lo stacco e le sentiamo direttamente. Grazie, sì. Okay, un abbraccio forte anche da a voi, tutte quante. Ciao. Ciao. Ciao. Non abbiamo chiuso, stiamo sempre in linea. Sì, sì, ci sono. Ciao, come stai? Ciao, bene, ciao a tutte. Ciao, senti, ci farebbe piacere sapere un attimo, dopo tutto il discorso che ci ha fatto Silvia, il programma che avete per l'8 marzo. Certo, allora Silvia ha toccato tanti punti e questi punti vale la pena appunto di condividerli per arrivare a un 8 marzo che sarà una camminata autodeterminata nelle vie di Milano, in particolare in via Padova e viale Monza, la zona nord di Milano, che è una zona comunque con una presenza di migranti molto forte, e per arrivare appunto a questa giornata faremo degli incontri dove da un lato appunto si parlerà del percorso dell'esperienza del confederalismo democratico, soprattutto nella prospettiva di genere, di cui Silvia vi ha dato tanti spunti che appunto vale la pena di condividerne per farne un po' tesoro e per in qualche modo sottolineare parole d'ordine o pratiche, soprattutto più che parole, che a noi come femministe radicali ci risuonano da tempo. Quindi queste serate, diciamo, in preparazione dell'8 marzo saranno 4 serate. Una prima serata sarà giovedì 26 al Boccaccio di Monza, poi ci sarà un'altra serata il 27 al Kinesis di Tradate, e poi a Milano la settimana successiva, il 3 marzo, saremo al Piano Terra e il 5 in Calusca presso il Centro Sociale Conchetta di Milano. In queste serate, oltre appunto a parlare del percorso delle donne curde, parleremo appunto dei punti di contatto e cercheremo appunto di coinvolgere gli interessati a questa camminata autodeterminata che sarà l'8 marzo, come dicevo, nella zona nord di Milano, viale Padova e viale Monza. Le parole d'ordine di questa camminata sono lotta contro tutti i patriarcati dell'Occidente e dell'Oriente, perché riteniamo appunto, come le donne curde nell'appello dell'8 marzo richiamano, cioè c'è un attacco da parte del dominio patriarcale in tante modalità, e è un attacco che proprio attraverso la guerra mette in evidenza come le donne sono le prime ad essere colpite, non soltanto nell'ambito della guerra, ma certo nell'ambito della guerra vediamo come anche la contrapposizione tra Occidente ed Oriente, oggi rappresentata da la violenza indicibile dell'ISIS, contro la quale l'Occidente si fa paladino. Interessante, sì, la lettura che avete fatto voi. Si fa paladino, ma è quello che ha evocato i mostri, cioè esattamente. E qua anche la lettura in una prospettiva di genere è interessante, nel senso che mentre le donne curde con il loro percorso, e non soltanto come appunto partecipazione in autonome unità combattenti, ma come diceva Silvia, in tutti gli ambiti sociali, però evidenzia proprio la loro prospettiva di autodifesa e di lotta al patriarcato, ben diverso è l'approccio di donne che comunque hanno aderito all'ISIS per svolgere varie mansioni, che vanno dalla raccolta di informazioni al servizio di sussistenza, preparazione del cibo, alla condivisione sessuale. Ci sono addirittura delle brigate, tutte attirate da una campagna mediatica che promette loro di vivere in un vero stato islamico. Quello che abbiamo sottolineato, che si può leggere anche nel nostro blog, è che questo evidenzia proprio come anche questo stato islamico, in netta contrapposizione all'Occidente, in realtà è uno stato-nazione in cui la violenza contro le donne e la rigida divisione dei ruoli, proprio come le nostre democrazie occidentali praticano da secoli, sono fra i cardini principali. Quindi senti, volevo fare un'osservazione sullo stato-nazione, no? Siccome questa è una cosa ricorrente nella, sì, nei documenti, no, curdi e compagnia bella, e io ritengo che loro abbiano fatto un salto notevole dal concetto del grande Kurdistan al confederalismo democratico, perché è proprio una visione completamente diversa. Il problema forse di fondo è che qui da noi c'è un grande dibattito sul concetto di Stato-Nazione. Perché? Perché noi siamo, diciamo, in una situazione leggermente diversa, e infatti secondo me sullo Stato-Nazione il dibattito si dovrebbe aprire anche tra noi femministe. Per esempio il neoliberismo, lo stadio imperiale, no, che poi è portato avanti come stato del capitale dagli Stati Uniti in primis, tende alla distruzione dello Stato-Nazione, perché parcellizzando le realtà locali il dominio diventa globale, internazionale, tant'è vero che tende proprio a distruggere la potenza, stiamo parlando sempre in un ambito capitalista, imperialista, intendiamoci, non di una società diversa. Quindi qui il neoliberismo tende alla distruzione dello Stato-Nazione, a parcellizzare gli stati e alla creazione di una borghesia sovranazionale che dovrebbe bypassare le borghesie locali. Allora noi in questo concetto siamo messe male, perché da una parte capiamo benissimo che la strada del confederalismo democratico è una strada vincente, perché porta avanti un discorso completamente diverso da quello del capitale. Allo stesso tempo però questo discorso qui da noi viene usato in quest'altro senso, quindi io butto lì questo, perché è una dovrebbe essere motivo secondo me di ragionamento sopra, ecco. Ecco, e su questo, proprio per questo è molto importante secondo me un confronto continuo rispetto a delle pratiche diverse che appunto non soltanto a livello teorico ma attraverso una costruzione ovviamente contestualizzata in realtà differenti, però in qualche modo il modello lo contrastano attraverso una pratica, no? Certo, e quindi questo certo, un po' ed è un po' la critica che incontrando le compagne curde o sentendo loro interventi così un po' fanno al percorso delle femministe occidentali, cioè siamo molto brave nella teoria, quando poi si tratta di tradurre parole d'ordine che in qualche modo ci avvicinano ma in un percorso o in esperimenti, in pratiche, in quello siamo effettivamente un po' più limitate. Proprio per questo anche piccole esperienze a partire da progetti come quelli di autodifesa femminista piuttosto che consultori autogestite possono essere, come dire, una attuazione in un contesto ovviamente dove le condizioni sono altre, ma che in qualche modo dà respiro alla possibilità di costruire nel qui e ora un qualche cosa di diverso e che si stacchi un po' dal meccanismo della delega. Certo, ma infatti il problema vero è questo, quello che aveva accennato Silvia anche prima, che noi ci avevamo provato negli anni 70 a fare questo, soltanto che il sistema è stato molto bravo a inglobare attraverso una socialdemocrazia di, chiamiamoli tra virgolette, diritti pilotati, a inglobare la forza che avevano espresso le donne, e adesso addirittura a ribaltarci contro l'emancipazione, perché l'emancipazione è uno strumento che ha permesso a tutta una serie di donne di diventare strumento del patriarcato e di opprimere le altre donne. Quindi noi siamo in una fase, cioè secondo noi almeno, in cui dovremmo fare chiarezza su questo qui da noi. Esattamente, sì, e certo appunto il percorso delle donne curde non è un percorso in un'ottica di emancipazione, no, è un certo percorso in un'ottica di assumiamocela, facciamoci carico direttamente, limite, certo, la difesa di noi stesse e di noi stesse nell'ambito di una società, e in questo senso il loro, anche la loro partecipazione alla guerra che prima Silvia descriveva molto bene, appunto con una descrizione strumentale fatta dai media occidentali, in realtà loro sono le prime a dire non siamo certo noi le esaltatrici della guerra, ma nel momento in cui si tratta di un'autodifesa rispetto a un nostro progetto, rispetto a un nostro popolo, rispetto a una nostra comunità, non siamo certo noi a tirarsi indietro. E peraltro ci dicono anche che attraverso questa decostruzione da un lato, questo percorso separato che sottolineano molto, comunque questo in qualche modo ha portato anche l'uomo a cambiare le proprie abitudini o comunque ad interrogarsi, e questo è un qualche cosa dove a volte noi invece in tanti contesti ci ritroviamo un po' complici, pur dicendo appunto a parole non deleghiamo, poi non abbiamo questa capacità di come dire, praticare un percorso separato, che non significa certo gli uomini sono i miei nemici, ma mi assumo io direttamente in prima persona la difesa di me e mi assumo la responsabilità di praticare un modello altro senza delegarlo a qualcun altro. Allora senti Serena, noi purtroppo dobbiamo Scusa. No, ogni tanto mi si confondono i nomi. Eh sì, siamo in tante. Allora, no, siamo costrette a chiudere perché altrimenti non facciamo in tempo a sentire Nicoletta. Abbiamo chiesto alla trasmissione dopo, a prove tecniche di trasmissione, che ci dia un po' di tempo e quindi adesso vorremmo chiamare Nicoletta e sentire da lei, spiegare queste suggestioni un po' strane di cui ci ha fatto un attimo partecipi e che non voglio anticipare, perché sono un po', come si dice, se non altro un argomento che è sempre in quest'ambito, però assolutamente originale, che voi conoscerete già di sicuro, però no, sarà una sorpresa. Quindi io vi ringrazio tantissimo e salutateci tutte. Grazie a voi, insomma, buon 8 marzo e vi seguiamo in trasmissione. Grazie. E comunque vorremmo almeno salutarvi con le parole, le ultime parole del nostro comunicato, che dice: la lotta batte ancora viva nelle vene del tempo presente. Dai. Ciao, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao a voi. Ecco, allora, come vi avevamo anticipato, siamo in diretta per una chiacchierata con Nicoletta Poidimani, che ci ha mandato delle suggestioni veramente interessanti, che noi abbiamo intitolato Inanna Ishtar. Da Inanna Ishtar alle JPG, non so veramente come si legge bene, genealogia della potenza femminista. Allora, spiegaci, dici che cos'è Inanna, che cos'è Ishtar e che cos'è questo filo rosso che lega che la lega alle curde, alla lotta curda di adesso. Sì, intanto ciao a tutte e ringrazio anche la trasmissione successiva che mi ha concesso dei minuti. Dopodiché cercherò di essere quanto più sintetica, poi magari nei prossimi giorni nel mio sito metto un po' più per esteso. Ma cerco di venire subito al dunque. Circa un anno fa, delle compagne curve hanno fatto degli incontri in giro per l'Italia e in aprile e una di queste compagne all'incontro a cui ero io ha esordito citando Ishtar. Questa cosa mi ha colpita tantissimo a proposito di cose che risuonano, perché c'è stata una risonanza di immaginari, nel senso che la dea Ishtar, o meglio il suo nome precedente, la dea Inanna, è una mia passione da tipo 25 anni, per cui ho anche incominciato a studiare il cuneiforme per poter leggere direttamente i testi che parlavano di lei, proprio una di quelle passioni. E allora è stato incredibile, perché effettivamente questa dea è una dea potente, è proprio una dea femminista, diciamo, nel senso, per un immaginario femminista. E guardando immagini, ascoltando altre compagne curde, vedendo i video, sentendo le interviste, eccetera, mi è sembrato veramente chiaro questo collegamento, e mi spiego. Cerco veramente di essere breve, perché avrei tantissime cose, perché poi ovviamente ho ripreso in mano i testi, i miti di Inanna, la saga di Gilgamesh, tutte queste cose. Ti saranno venute in mente tutta una serie di idee. Certo. Ecco, però molto in breve, a me da molti anni interessa la civiltà sumera, proprio perché ritengo che quella sia stata una, ma non sono poi io l'unica, e sia chiaro, molta gente anche prima di me, comunque il vero momento di passaggio di civiltà. E non ho mai pensato che la Grecia fosse la culla della mia civiltà, mi sentivo più da quelle parti per una serie di questioni, a partire proprio dallo snodo che è quella fase, e ci troviamo nel quarto millennio avanti Cristo, per capirsi, dove coesistono ancora due dimensioni, che sono una quella che stanno cercando di ricostruire nel Rojava, e l'altra invece quella in cui ci ritroviamo a vivere noi, sostanzialmente. Questa per farla molto breve, ed è stato curioso vedere come anche Ocalan legga questa cosa nello stesso modo, no? Mi è capitato appunto di leggere La rivoluzione delle donne, ho detto guarda, ma allora quindi anche da quelle parti mi viene la stessa conferma, no, di questo snodo. Insomma, sostanzialmente questa dea Inanna, che è una dea importantissima per i sumeri, ed è una dea che resiste per millenni, per cui si trasforma da Inanna a Ishtar, passando ai babilonesi, assiri, titi, tutte le varie dominazioni, lei regge, resiste. Ed è una dea particolare, perché è molto, dicono duplice, in realtà secondo me complessa, perché è dea dell'amore e della guerra. Cosa vuol dire? È dea dell'amore, non dell'amore familiare, dell'amore di coppia, anzi poi il contrario, anche il rapporto con gli uomini di Inanna. Dell'amore nel senso proprio della prosperità, del far star bene l'umanità, e anche dell'amore erotico, perché lei è molto erotica, non è una dea censurata, no? Ed è dea della guerra perché è incazzosissima, non sopporta le ingiustizie, non sopporta gli oltraggi, e cerca di dare delle cose buone al genere umano e al genere donnano, e si ritrova invece con questi che fanno poi cazzate, no? E quindi si arrabbia tantissimo, si arrabbia anche con gli dèi, insomma è una bella potenza. Non è una dea madre, c'erano altre dee madri, lei non è una dea madre. In questo senso è dea della fecondità, nel senso proprio della fecondità dei campi, è una dea molto tellurica, diciamo. che poi invece tutte le altre nei tempi sono sempre dee madri di fatto. Sì, sono dee madri e soprattutto perdono questa connotazione di potenza, cioè la potenza nell'essere madri. Certo. Infatti la cosa interessante è che anche in Italia, per esempio, c'è stato un percorso di ricerca all'interno del pensiero della differenza sulle dee madri, no? Ma perché c'era il mito della madre, insomma, sì, e del materno, in mano anche quello, e devo dire ha portato da tutt'altra parte, insomma, quindi vabbè, lasciamo stare. Voglio dire, ricerche anche egregie, riletture comunque della mitologia interessanti, molto molto psicanalitiche anche, però una cosa diversa. Qui stiamo parlando di una cosa diversa, perché questa dea è la dea, poi non è una dea, è signora, perché quella è la traduzione poi da alcune forme. L'essere signora è l'essere regina nel senso della divinità, però non c'è quel senso di divinità, è una potenza, no? Certo. E infatti viene definita signora del cielo. Peraltro, cosa curiosa, il simbolo di Inanna in cuneiforme, cioè della divinità di Inanna, è un asterisco, perché è il simbolo della divinità in generale in cuneiforme, a cui segue il nome di Inanna. Però questo asterisco diventa poi ciò che rappresenta Venere, il pianeta Venere o la stella Venere, come viene definita, per la sua luminosità, e diventa il simbolo di Inanna, questa stella a 8 punte. Sì, infatti noi l'abbiamo messa nel palinsesto, devo dirti la verità, abbiamo messo stella. Quindi sì, l'essenza della divinità proprio è Inanna, no? Perché proprio quel segno significa divinità per dei e dee indistintamente, ma lei diventa quel segno, quindi anche questo è interessante. Ma la cosa più interessante è che la si incomincia a sentire nominare intorno al 3400 avanti Cristo, e in un vaso famoso, un antico vaso sempre del quarto millennio avanti Cristo, viene rappresentata in una storia, ed è la prima storia che viene scritta su un vaso, praticamente la sua faccia. Questa è una delle letture di chi studia alcune forme, rappresenta il principio di individuazione, cioè l'inizio della categorizzazione del reale. E curiosamente questa storia incomincia con lei, cioè incomincia dalla fine, quindi è la, come dire, la trascrizione di qualcosa di orale, la fai la storia di, e poi racconti la storia, no? Certo. E però viene scelta lei per raffigurare questo primo monumento, sostanzialmente un documento che è un monumento, e quindi già questo, insomma, ci dice della potenza, no? Cioè, sto spiegando tutte queste cose non per sfoggiare cultura, ma per far capire che potenza possa aver avuto nell'immaginario, e come sia interessante vedere come la potenza sia stata rinominata oggi da questa compagna curda. Certo. Cioè, perché mi nomini Ishtar in apertura del tuo intervento, no? Spiegando poi noi in Mesopotamia, eccetera, e facendo tutta la storia di quello che è il Kurdistan, però parti da Ishtar, ed è questa cosa è molto molto bella, secondo me, cioè fa vedere che questa dea è talmente potente che è ancora viva, no? E comunque questa potenza si ritrova poi evidentemente nel come ti posso dire, è come quando una donna si porta dentro il percorso della sua terra, in effetti. Esatto, infatti, ed è interessante che questo avvenga proprio in una civiltà come quella sumerica, che è la prima civiltà stanziale, no? Certo. Cioè, c'è anche questo momento di passaggio, oltre alla scrittura, le prime leggi, eccetera, eccetera, c'è la stanzialità, cioè avviene una serie di cose chiave, no? come lei rappresenti un rapporto con la terra, lei è l'attraversamento continuo, è attraversamento di territori, è attraversamento di dimensioni, è attraversamento, va anche negli inferi, sua sorella sta negli inferi, lei va lì ed è tutto un percorso estremamente interessante. E la cosa interessante, qui veniamo magari al nodo del rapporto con gli uomini, che dice molto che tipo di immaginario trasmette una dea così. Lei appunto fa questo viaggio agli inferi, la faccio brevissima, viene uccisa negli inferi. Sì. Insomma, la sua ancella fa di tutto perché lei possa tornare sulla terra. La sua ancella, che aveva sostanzialmente questo mandato: se per 3 giorni e 3 notti non vedi la stella Venere, sostanzialmente vienimi a cercare, fai certo. qualcosa per liberarmi perché sono morta. Questa ancella si dà da fare, insomma, riesce a farla tornare in vita tramite tutto un giro di divinità che creano due esseri assessuati che insomma possono salvarla. E però in cambio, perché lei esca dagli inferi, deve mandare qualcuno negli inferi. Le propongono di mandarci la servetta e lei dice no, come, mi è stata fedele, no? Ha fatto esattamente quello che io ho detto di fare, questa ancella, e ci mando invece mio marito, che mentre io ero qua morta non solo non ha osservato il lutto, ma ha preso il trono regale. Ed è lì che se la spassa, quindi lo fa prendere da questi due geni assessuati e lo fa portare agli inferi. E quindi è una che riconosce, anche il diciamo chi si comporta in un certo modo e chi si comporta in un altro. Gli dèi di solito non hanno questa sono molto lunatici, no? No, ma infatti ti dicevo, lei sì, è un dea della guerra, nel senso che si arrabbia con le prepotenze, gli oltraggi, queste cose. E il suo rapporto col maschile dice proprio questo. Un altro uomo è Gilgamesh, giusto per citare uno abbastanza famoso, nome, insomma, sì, come sì. nome, no? Gilgamesh, la cui epopea, la cui saga viene scritta nel terzo millennio, quindi siamo nel millennio successivo, intorno al 2500. E in uno dei passaggi del Gilgamesh Inanna si vuole accoppiarsi con lui, mettiamola così, facendola molto breve. Gilgamesh gliene dice di tutti i colori, io no, con te fai schifo, le dice delle cose terrificanti e dice tu, nessun uomo è venuto a letto con te che poi la mattina dopo non fosse morto. Ah. No? E le fa una lista, e parte da questo Dumuzi, che lei si era incazzata perché si era preso il trono ed era lì che se la spassava mentre lei era morta, a partire da questo le fa i nomi di una serie di tipi, tra cui uno che l'ha stuprata, un giardiniere di un dio che pare fosse pure figlio di sto dio, non è molto chiara la questione, che insomma mentre lei sta dormendo sotto una palma la stupra. Lei si sveglia giustamente incazzatissima e quindi gli manda una serie di maledizioni, di cose, insomma alla fine lo trasforma in una talpa. Povera talpa! E Gilgamesh invece nel ricordarle questo uomo le dice invece che lei ha invitato questo uomo a a farci del sesso, perlomeno, nel senso che la frase che lui le dice è: tu hai detto stendi la tua mano, portala sulla mia vulva. Ora sono due concetti diversi, questo è lo stupro, certo, no? Mi sembra quello che dicono adesso in pratica, esatto, cioè quindi Gilgamesh fa la donna questa dea colpevole, e siamo però qui già al millennio successivo, capisci, incomincia questa, come dire, questo attacco, questa guerra contro Inanna, certo. Che infatti poi resiste nei millenni, nel senso che comunque continua a esserci il suo culto, eccetera, però però vedi il patriarcato che la vuole fare fuori, e Gilgamesh rappresenta proprio il patriarcato, e questo semidio che ha una paura folle della morte. E lui invece è immortale, un semidio, peraltro, certo. Anche dio, cioè due terzi dio, insomma, una cosa così. Però ha paura della morte perché muore il suo amico amante, e lui, a lui viene questo terrore della morte. Non della propria, ma del fatto che esista là. È quasi un percorso. Morto l'amico, poi, fondamentalmente, ma comunque anche di fondo della propria morte. Vedevo una lucina, non capivo cosa fosse, per questo mi sono un attimo ci fanno cenno che appena possiamo, come si dice in queste occasioni, il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Ok, allora chiudo con un'immagine, sì. Che secondo me rende l'idea. Gilgamesh di solito viene rappresentato dominare un leone, lo tiene per la coda, gli tiene il piede sopra, eccetera. Invece Inanna è rappresentata sopra i leoni, e i leoni hanno uno sguardo fiero come il suo. La cosa bella è che qualche mese fa uno scultore curdo che si chiama Hadi Ziyeddin ha fatto una statua dedicata proprio alle donne curde delle YPG, di questa donna vestita come stanno in montagna, seduta su un leone che guarda lontano lei, e il leone guarda in faccia chi sta davanti alla statua. È bellissima. Un'immagine bellissima. Ed è bella proprio a livello di come sia ritornato fuori di nuovo quell'immaginario, anche addirittura in questo che è uno scultore uomo. Io credo che stia succedendo qualcosa di grandioso anche da questo punto di vista. Mi dispiace essere stata sintetica. Ma questo tipo di discorsi uno non li chiuderebbe mai, no? Hanno un grandissimo fascino, quindi potremmo anche riprenderli assolutamente. Anzi, mi dicevi che tu metterai questo materiale sul tuo blog. Sì, a questo punto metto nel mio sito, insomma, mi prendo qualche giorno. Sì, è un sito, è vero, io sono molto ignorante in materia, sovrappongo siti e blog, però, e che è www.nicolettapoidimani.it. Allora, www.nicolettapoidimani.it, per trovare fra qualche giorno queste suggestioni e questa storia. Noi ti ringraziamo tantissimo, ci dispiace di non averti dato tutto il tempo possibile, ma noi ci rendiamo conto che abbiamo sempre troppo poco tempo in trasmissione. Ti ringraziamo veramente. È meglio così, poche parole più pratiche, guarda. Va bene che il tempo sia contato a volte. Pensiamo anche noi, perché abbiamo deciso di non fare una trasmissione di 2 ore, perché sennò sì, saremmo morte. Esatto. Va bene, allora grazie tantissime, e non vediamo l'ora comunque di leggere questo materiale. Grazie, un abbraccio grande. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E con questo chiudiamo la nostra trasmissione. Ringraziamo tantissimo la trasmissione Dopo, Prove Tecniche di Trasmissione, che ci ha concesso questo spazio, e mettiamo la sigla. Vi ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima ad Ararat per l'assemblea, alle 19, per l'assemblea di costruzione di questo 8 marzo. Ciao a tutte, ciao a tutti. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution. Hanging.